l'ipotesi più accreditata è che non ci sia nella legge delega un riferimento esplicito, se non genericamente, al fatto che si interverrà sull'imposizione indiretta quando sarà, cioè quando ci saranno i decreti legislativi. E questo credo che sia anche la scelta più saggia, perché non è che si può annunciare un aumento dell'IVA. Cioè, se uno annuncia un aumento dell'IVA tra 6 mesi si scatena la speculazione su... L'inflazione è garantita, diciamo che il mondo del commercio aumenta i prezzi in maniera equivalente prima ancora che aumenti l'IVA. Per cui, insomma, a quel punto, esatto. Cornuto e mazziato, che è poco esatto. Francese come espressione, ma insomma è molto chiara. Dino Pesola invece, mi sembra che sulla parte invece finanziaria, tra l'imposta dello 0,15% sulle transazioni e il 35% di tassa sul trading bancario, lì ci sia più ciccia. Sì, questo è nel testo del decreto legge e dunque è materia che dovrebbe essere immediatamente operativa. Sì, c'è, e questa è la parte più nuova, perché ieri sera la bozza che avevamo anche noi non prevedeva questa parte fiscale, che è stata scritta in queste ore, tenendo conto però che le misure che tu hai appena esposto sono ancora tutte sub iudice, perché come sempre alla vigilia delle manovre magari si buttano là delle misure, ad esempio quella relativa al trading delle banche, che magari vengono buttate là per vedere che l'effetto che fa, poi magari il giorno dopo vengono sostituite. Siamo ancora in una fase di grande incertezza sulla composizione del menù. Quello che è certo è l'entità della manovra, e quello che è certo è che la manovra vera, forte, ci sarà nel 2013-14, perché l'intervento su quest'anno e il prossimo è abbastanza ridotto. Che ne è dei tagli alla politica, chiedono gli ascoltatori? Tagli ai costi della politica, anche alla politica però. Le bozze che stanno circolando finora non ne recano traccia, se non No. Non in misura molto, molto così. Ma come? Auto blu, voli blu, stipendi dei ministri? Niente. Ci sarà qualcosa, ma teniamo conto che si tratta, se facciamo un ragionamento di tagli veri che possano incidere profondamente sul bilancio, saranno delle carezze, insomma, sarà una roba di pochi milioni.